Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oscar! Eccoci qua. Oscar! Eccoci qua. Dicono che piacciono gli uomini forti a 8 italiani su 10. Quindi... Oscar! Ah, quindi bisogna fare così. Oggi ti tratto. No, scherzo. A 8 italiani su 10 piace l'uomo forte. Oscar, hai sentito? A mia moglie pare di no. Perché dico invece domini la donna forte. È uno dei due italiani. Sono nella parte. È uno dei due italiani su 10. Margherita, santa Margherita. Intanto mi lascia te per i tagli. Dice perché i matrimoni. Mi ha lasciato uno. I matrimoni che funzionano sono quelli con l'uomo cane. Ho trovato un ritaglio di un giornale. Tu gli hai detto che sei più gatto che cane. Sì, però era preferito il Bau, evidentemente a casa mia. No, io scherzo, è capace di ironie taglienti la capa, per così dire. La capa. Forse perché quando ci sono almeno 4 giorni consecutivi in cui il santo e Santa Margherita inizia a preoccuparsi. Ma detto questo, tu oggi non mi hai segnalato due cose fondamentali. Io te lo dico, poi andiamo sempre. La pagina sul Messaggero intera di Valentina Arcovio, perché piove di più al sud, ti è sfuggita? Perché le temperature sono elevate. No, Valentina, ti sei dimenticato una cosa. Il famoso detto piove governo ladro si spiega tutto. Piove di più quando certe propensioni sono elevate. Cioè, questa è una cosa fondamentale, per esempio, no? Ecco, quindi quelle segnalazioni tu le devi dare ai nostri ascoltatori nella rassegna stampa. Per esempio, la stampa che mette in prima pagina Draghi ieri ai tempi di Cavour ho portato Cavour a Francoforte, e la stampa si perde il vero significato. Ai tempi di Cavour stavo in Sabaudia, i Borboni, quelli di giù stavano con i Borboni, era questo il significato, no? Cioè, più attenzione, io sto ridendo, ma nessuno si è reso conto che quell'elogio di Cavour in tempi in cui l'Europa si vuole spaccare, forse Draghi non ci ha pensato molto bene, ma era elogio di un'Italia divisa, ecco. Quindi a volte quando si scrivono dei discorsi bisognerebbe pensarci un secondo, stai criticando Draghi? No, dico però che l'esempio storico è un esempio preunitario, quindi voglio dire, cari no euro, questa volta portate a casa una battuta favorevole. Allora, santo, ma ne indico solo uno, anzi no, due, perché uno è San Francesco di Sales, il grande mistico francese a cavallo tra 500 e 600, ed è il patrono, devi sapere, anche dei giornalisti, perché lui fu ufficiato a vescovo a Ginevra quando i calvinisti ormai dominavano a Ginevra, e quindi si vede molto da fare con dei tazebao, eccetera, eccetera. Di qui quindi il fatto di essere il patrono di noi giornalisti. Al sole lo preghiamo per una serie di ragioni, anche la notte, oltre che la mattina. Mattina e pomeriggio. E poi, se siccome siamo qua a Milano, molti si chiedono a Milano: ma sto San Babila? A chi era? Ecco, oggi si festeggia. Esatto, la piazza, la chiesa. E un santo ai tre bambini non c'entra niente con Milano, con l'Italia, perché un vescovo di Antiochia messo a morte sotto Decio con tre bambini, appunto, che si chiamavano Urbano, Pervidano e Polono. Però per motivi che non sono noti, fin dal IX secolo a Milano si scatena questo culto di questo cristiano che però è stato martirizzato in Turchia e che di origini era di là, e quindi San Babila nasce per questo. Le faccende da ricordare oggi, io trovo fenomenale. Oggi era il giorno in cui si sposò Garibaldi con Giuseppina Raimondi. Nessuno se la ricorda come sua moglie, sai perché? Perché un'ora dopo il matrimonio ricevette una lettera nella quale al grande condottiero si spiegò per filo e per segno tutti i tradimenti di Giuseppina, compresi due ancora in atto. E lui andò furibondo alla moglie, disse: ma è vero tutto questo? Continua a tradirmi? E lei disse sì. E il signor Garibaldi disse: signora, lei allora è una. Ecco, questo è un'ora dopo il matrimonio. Nessuno ricorda, perché ovviamente così sembra che Garibaldi ci perda. Invece secondo me ci guadagna in questo ricordo. E tra le altre cose venute oggi, che tutti siamo in attesa della Corte Costituzionale, nasceva oggi nel 97, guarda un po', la bicamerale per la riforma della Costituzione. E che ci vuoi fare? E nel 2003 moriva Giovanni Agnelli, 81enne, ma compleanni. Oggi due fantastiche signore che hanno cambiato la modalità di come si veicola l'intelligenza femminile. Una è Michelle Hunziker e l'altra è Maria Elena Boschi. Maria Elena Boschi che fa gli anni. Allora, auguri, auguri. Allora, caro Oscar, diamo il numero di telefono 800 24 0024. Man mano che passano i giorni si scoprono cose un po' inquietanti anche su questa vicenda dell'Abruzzo, perché intanto da tre giorni c'era l'allarme slavine, tre giorni, forse quattro. E poi si è scoperto anche che l'albergo è stato costruito sui detriti di una vecchia valanga. Tanto, non sai come funziona in Italia, ma era una valanga del 36. Ma insegnano tutti i geologi, ma lo insegnano col senno di poi, che poi queste cose sono cicliche. Se c'è alla stata... fine di un canone come quello, c'è stata una volta, vuol dire che si è esposto al rischio. Si è esposto al rischio. Insomma, racconti e spaccati di un'Italia che ricade ogni tanto nei propri errori, a mio modo di vedere siamo il paese anche degli abusivismi, dell'abuso edilizio, eccetera, e poi delle lamentele a dire dopo, e poi di questi allarmi che forse sono stati sottovalutati, cioè tre giorni. Oggi, giustamente tu hai fatto notare, Guido Castelli, sindaco di Ascoli, fa un'accorata lettera pubblicata nel Messaggero dicendo cosa devo fare. Cioè qui arriva la commissione grandi rischi e dice che ne so, le scuole che non hanno tutti i piani per le questioni sismiche devono adeguarsi. Se non ho i soldi cosa faccio? Chiudo le scuole? Le chiudo oggi, domani, le chiudo per un tot? Cioè l'Italia si interroga su come affrontare queste tragedie che di tanto in tanto... Io devo dire, sono rimasto molto colpito, poi c'è una pagina intera al Messaggero in cui ci sono dichiarazioni di molti sindaci dell'area colpita, di Leonessa, di Barbone in provincia di Rieti e così via. E leggo solo quest'altra frase: Maria Antonietta di Gaspare, sindaco appunto di Barbone in provincia di Rieti. La mia gente non ne può più, né di stare qui né tantomeno di capire le assurdità. Per esempio, dichiarata la Commissione Grandi Rischi. Lo sanno che non sono di supporto a nessuno? Allora, il problema qual è, aggiungi? I nostri comuni vanno evacuati. Io vengo ora da una frazione, Piedi Mordenti. Gli uffici sono tutti lesionati. Non posso aspettare pareri pubblici concorrenti che non arrivano. A un certo punto dichiarerò oggi stesso zona rossa, fra lo stesso col centro storico, ho il 70% degli edifici inagibili, qui è tutto da evacuare, la responsabilità dovrò prendermela io. Perché poi il sindaco problemi, è responsabile, capisci? Della protezione civile del comune, come abbiamo chiarito ieri. Tra l'altro, anche lì, allarme da tre giorni slavina, il sindaco di Farindola dice io non l'ho ricevuto. Ci manca solo che, non so, non abbiamo controllato le mail, qualcuno mente, qualcuno dice una cosa che è successa e che evidentemente... E ricordiamo che venerdì, perché io ho ricevuto per metà giornata telefonate istituzionali, chi ha iniziato a criticare è stato sommerso dall'invito a non rompere le scatole, perché si trattava di riconoscere che invece lo Stato c'era, lo Stato stava salvando le vite, e chiunque osasse criticare, per esempio, i conflitti di competenze istituzionali, eccetera, eccetera, veniva additato come sciacallo. In ogni caso, noi vogliamo parlare con Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Buongiorno Padellaro. Ecco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con noi c'è anche Erasmo D'Angelis, che è coordinatore di Italia Sicura, questa unità di missione voluta da Palazzo Chigi, è proprio contro il dissesto idrogeologico, lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Insomma, D'Angelis, intanto, quando leggiamo che l'albergo era costruito su detriti, cosa dobbiamo dire? Che di una vecchia frana, di una vecchia valanga? È la classica, come dire, storia all'italiana che si ripropone? Sì, purtroppo sì, c'è tanta rabbia, ma come quando vediamo la Sicilia allagata, da una decina d'anni ci sono milioni e milioni che non vengono spesi dalle pubbliche amministrazioni per mettere in sicurezza torrenti, fiumi, anzi si costruisce su torrenti e fiumi, poi ne paghiamo le conseguenze. Purtroppo siamo un paese largamente impreparato alla prevenzione, con una scarsa coscienza dei rischi, che ce ne sono tanti, una scarsissima conoscenza dei fenomeni naturali, e la politica ha governato per anni senza muovere un dito su manutenzioni, prevenzioni. Oggi scopriamo che c'è diciamo un'Italia che è un'identità forte del nostro paese, che è stata abbandonata al suo destino anche dalla politica. Voglio dire, qui insomma non si tratta di fare per nessuno, però si tratta probabilmente di cambiare anche, diciamo, alcune cose. Cioè non siamo stati in grado di mettere in sicurezza un patrimonio edilizio che per, diciamo, quasi il 60% nelle zone sismiche è spazzatura, cioè può crollare per terremoti anche non importanti. Facciamo il tagliando all'automobile, ma non lo facciamo nelle nostre abitazioni. Cioè, pensiamo di vivere in un paese virtuale, ma non è un paese virtuale l'Italia, è un paese che ha storie di tragiche alle spalle, terremoti, frane, alluvioni. Questo è il punto. Ora, noi siamo di fronte davvero ad un'emergenza che impressiona, straordinaria, un accavallarsi di eventi, però questa deve essere una lezione purtroppo durissima, che finalmente deve farci cambiare strada. Anche qui, accavallarsi di eventi. Prima alle 6.30 c'era ospite Mauro Corona. E Mauro Corona, che viene in una zona dove le montagne le conosce bene, dice: non esiste alcuna nevicata al mondo che non si possa pulire. Cioè, la neve scende, che ne so, 4 centimetri all'ora, basta avere i mezzi che passano continuamente e le strade si puliscono. È una nevicata storica, 2-3 metri di neve dopo un terremoto. Ma non è che vengono 2-3 metri dopodiché, di colpo. Dopodiché è inaccettabile che qui, insomma, sono 6 giorni ormai, c'è un pezzo di popolazione senza energia elettrica, acqua, riscaldamento. È inaccettabile che non ci siano le turbine, è inaccettabile che anche le aziende pubbliche siano trovate impreparate di fronte a questo, diciamo, di fronte a questi eventi. Questo è evidente, c'è una catena di comando che, diciamo, funziona a livello nazionale, poi in tanti territori non funzionano i terminali, le regioni, i comuni, e, insomma, abbiamo problemi enormi. E finalmente bisognerebbe anche che il dibattito pubblico, che oggi è al 99% centrato su altre cose, ecco, si piegasse un po' su questioni che riguardano anche la nostra sicurezza. Però vede, D'Angelis, posso fare un'osservazione? Come lei no? Dice che la catena di comando c'è a livello nazionale, non funziona a livello locale. Chi ha esperienza di coordinamento di sala operativa per emergenze sa, per esempio, che l'alternare di ogni colore politico delle maggioranze negli anni che abbiamo alle nostre spalle, del bipolarismo zoppo che disconosce le cose statuali, perché noi viviamo in un paese in cui si smonta tutto, ogni volta ha modificato in profondità i poteri di coordinamento in modo straordinario affidati alla Protezione Civile. Lei sa che è così nel passaggio da destra a sinistra e da sinistra a destra, perché ci fu un enorme problema su Bertolaso e Berlusconi. Quindi il problema qual è? A livello territoriale, quando arrivano le sale operative richieste come quelle degli hotel locali, al di là del capire adesso perché per mezza giornata è stato sottovalutato, il problema è che poi i famosi poteri eccezionali fanno i conti con il fatto che i funzionari o il dirigente prefettizio di turno, prestato alla Protezione Civile e affiancato dalla struttura locale della protezione, deve iniziare le telefonate tra tutti i diversi corpi dello Stato, frazionati, divisi, eccetera, eccetera. Non c'è la delega totale al potere straordinario. Allora, questo che fatto Gentiloni qua ha chiesto deriva, e Del Rio ieri ha detto no, non serve. Allora, e in questa circostanza, oltretutto, ci si è affannati ad affiancare un commissario straordinario per la ricostruzione, quando, come si vede, la ricostruzione, hai voglia, qua per il momento ogni 3 mesi continuano a cadere le cose per il sisma, che ha aggiunto altri problemi, perché ci sono le ispezioni che i comuni devono garantire sul patrimonio intanto colpito, che nel frattempo continua ad andare giù, e tutto questo aggrava come un collo di bottiglia la gestione dell'emergenza continua, prove sismi, valanghe e così via. Allora, questi sono problemi di coordinamento istituzionale. Non è che si può dire il coordinamento istituzionale, la politica ha fatto tutto quello che deve. Secondo me, a ogni lezione non impariamo la lezione, per così dire, perché poi la politica dice: ma di chi è amico il capo della Protezione Civile? Sbaglio, secondo lei, D'Angelis? No, fino a un certo punto, no, diciamo, in larga parte ha ragione. Dopodiché è successo anche che la Protezione Civile, che abbiamo visto all'opera con Bertolaso, erano altri tempi, affidamenti diretti e senza gara, insomma, poi si vero, è visto come andava a finire. Oggi non sono più insomma, non ci sono più quelle misure lì. Dopodiché la Protezione Civile oggi è veramente in mezzo a un guado, perché nel 2011 è finita dentro la spending review del governo tecnico di Monti, addirittura il FEN, il Fondo Emergenze Nazionale, è stato azzerato e le regioni dovevano farsi carico delle emergenze, per cui c'era veramente un caos istituzionale. Il povero Gabrielli, che all'epoca era il capo dipartimento, oggi è capo della polizia, ripeteva ad ogni, io lo ricordo bene, certo, ministri, sottosegretari, benissimo, parlamentari, scusate, ma se a me mi capita un'emergenza che sera, uffici chiusi, beh, e non ho il visto dell'economia, parto il lunedì, che devo fare? Ma è abbastanza incredibile, su questo vogliamo coinvolgere Antonio Padellaro, cioè ci sta dicendo D'Angelis che è un paese molto friabile, molto fragile, nel quale costruiamo male, facciamo abusi edilizi, e adesso al netto di speculazioni politiche che ci sono state, ma ci sono soldi e si trovano soldi per tutte le emergenze, e invece tagliamo i soldi alla protezione civile. Sì, sì, ma D'Angelis dice delle cose giuste, ma che conosciamo a memoria, non è una critica a quello che dice, ma ne parliamo da sempre. Se vogliamo cercare di capire, non allargare il discorso a dismisure, cercare di capire che cosa è successo e cosa sta succedendo in queste ore, io penso che ci sia un problema che riguarda la qualità del personale politico-amministrativo, il personale pubblico. Perché se noi andiamo a vedere, prendiamo la tragedia di Rigopiano, andiamo a vedere i comportamenti delle amministrazioni, ma anche, mi dispiace dirlo, di chi gestiva l'albergo. Intanto vediamo perché questo è un dato centrale, quell'albergo è stato costruito lì. Ormai sono tutti d'accordo che il punto più pericoloso sul quale quell'albergo doveva essere costruito. Stiamo parlando di licenze date chissà quanti anni fa, ma evidentemente qualcuno la licenza l'ha data. Stiamo parlando di persone che volevano scappare dall'albergo e da altri ospiti che venivano accettati. Stiamo parlando di strade che non sono state pulite perché gli spazzaneve non sono stati mandati, e abbiamo anche scoperto che uno spazzaneve, una di queste macchine che avrebbe potuto pulire rapidamente la strada, era chissà dove. Stiamo parlando di amministrazioni come importanti come la prefettura, dove ci sono funzionari i quali guardano un fax, un telex, e dicono è una balla, questo è uno scherzo. Beh, oggi c'è la sbobinata della telefonata con la dirigente della prefettura su Repubblica che dice ma che è tutto a posto. Allora, se dobbiamo ogni volta dire perché l'Italia, il rischio idrogeologico, perché, sì, vabbè, non la finiamo, ripetiamo sempre le stesse cose. Ci sono, purtroppo, c'è una qualità del personale amministrativo che è scadente, lo vogliamo dire, perché altrimenti è sempre colpa delle leggi, la colpa della burocrazia, la colpa del mancato coordinamento, le province. Adesso, perché le province, io non lo so se le province... La riforma delle province abbia provocato tutto questo sconquasso, certo dei problemi li avrà provocati. Io vorrei fare un'altra domanda, scusate, ma non la butto in politica, anche perché non ho i dopo sci ai piedi, quindi non voglio fare assolutamente critiche di nessun genere a passate gestioni, ma io ricordo che il Presidente del Consiglio Renzi a settembre, e devo dire a due mesi dal referendum, e quindi c'era un fervore particolare, andò nelle zone del terremoto di Amatrice, cioè spostiamoci da Rigopiano, andiamo sul cratere, e disse non vi abbandoneremo, vi staremo sempre vicini, eccetera. Fu nominato Errani commissario straordinario, persone di esperienza, ci sono state critiche, ma chi se ne frega. Ora, noi sentiamo i cittadini, io non sono io lì, ma noi sentiamo, siamo che giornalisti. Non hanno le casette, anzi ci sono le riffe. Io dico per una le cosa, ecco, esatto, volevo arrivare a questo, ma uno degli spettacoli più deprimenti, tristi, squallidi, è stato quello dell'estrazione a sorte, ma perché l'estrazione? Dice perché non c'è la documentazione. Ma allora, se il Presidente del Consiglio di allora, la massima autorità, dice questa gente deve essere subito, deve avere subito un ricovero entro brevissimo tempo, si esegue, si fa. O perché, delle due l'una, o il Presidente del Consiglio di allora parlava di cose di cui non conosceva, o stava facendo annunci elettorali, ma non lo voglio pensare, oppure chi doveva eseguire commissari straordinari, superstrutture, eccetera, eccetera, eccetera, non ha fatto il suo dovere. Ma questa perché è una domanda... se andiamo ancora, scusa, finisco, se andiamo sempre alle leggi, perché non ne usciamo mai. Sì. Ci sono delle persone che non fanno il loro mestiere, non lo sanno fare o non lo vogliono fare. Allora, dopo la pubblicità, voglio ripartire perché, Oscar, nel giro di 24 ore c'era il rischio Vaillant e adesso non c'è più il rischio Vaillant. Allora, siccome l'Asmodangelis è responsabile di questa struttura anche Sentiamo. Per la sicurezza idrogeologica, vogliamo dare una risposta a quelli che stanno lì nelle zone a rischio. Tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, siamo con Antonio Padellaro, con Erasmo D'Angelis e tra l'altro ci chiama un ascoltatore, Ugo, da Farindola, che mi dicono dalla redazione, il nostro Lorenzo Lespoli, essere anche l'ex sindaco di Farindola. Buongiorno Ugo. È così? Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci, ci dica. Allora, intanto oggi per noi è un giorno particolare, diciamo, questo funerale di questo nostro amatissimo concittadino, amato come tutti gli altri che stavano lì e che certo. Speriamo alcuni possano salvarsi, altri non ce l'hanno fatta. Per noi è una tragedia immane. Volevo solo chiedere, con grande umiltà, un momento di chiarezza. Ho sentito tantissime trasmissioni in questi giorni, io per lavoro sto fuori di Farindola momentaneamente, adesso sto rientrando in paese. Tutti quanti hanno parlato basandosi su disegnini, riproduzioni grafiche, carte dall'alto. Venite a Rigopiano. A Rigopiano negli ultimi 500 anni non ci sono mai stati eventi nemmeno lontanamente simili a quello. Ci come sono neve, dei faggi di 500, no, come neve. La neve ce n'ha fatta anche il doppio di quella di sì. Questa volta. Non ci sono mai state valanghe, slavine, era un posto conosciuto per la sua tranquillità. Così, i giornali che raccontano di questa valanga del 36? Ma nel 36 la valanga non è stata a Rigopiano, nel 36 è stato inaugurato a Rigopiano il rifugio Tito Acerbo, che sta 80-90 metri sopra l'albergo, che non so se è rimasto in piedi. Quel rifugio sul quale poi è stato fatto l'albergo è dei primi anni 50. Ma quella zona, cioè l'albergo era contornato da faggi ultrasecolari che testimoniano che non ci sono mai stati quegli eventi. Tutto quel bosco è un bosco conosciuto per la maestosità dei propri faggi. Ci sono tre pianori che ammortizzano qualunque evento normale di valanga. Sì. Lì è successo qualche altra cosa, ci saranno delle responsabilità. L'albergo è stato costruito nel 69-70. Sì. Perché la procura vuole vederci chiaro, ma sul fatto che sia stata costruita sui detriti di una non vecchia è vero valanga. Niente. Allora, vabbè, questa io è l'ipotesi prego, della procura. Prego, hanno parlato intanto. Benissimo, certo. L'unica persona che ha una esperienza scientifica sì. di altissimo livello è il dottor Leo Adamoli, geologo del Parco Nazionale del Gran Sasso, che negli anni 60, quando si laureò in geologia, venne a fare la tesi di laurea sulla orografia del Gran Sasso di Rigopiano. Oscar, noi, quindi noi contattarlo, io l'ho cercato in tutti i modi, perché è veramente una persona competente che ha studiato da sempre e tuttora studia quelle zone. Ma quello che volevo dire sì. è che davanti alla eccezionalità degli eventi, il fatto che tutti quanti adesso predicano e dicono oh, ma lì si vede da lontano che non ci poteva stare un albergo, io sfido chiunque a dire che tutti gli alberghi di Cortina d'Ampezzo, di Courmayeur, delle vallate, delle Alpi austriache siano costruiti a rischio zero per eventi di così eccezionale portata. Va bene, Ugo. Cioè, se è vero che lì si sono mossi 150.000 tonnellate di neve e detriti. Ma è un evento assolutamente che nessuna senza prevenzione poteva no, ma Ugo va bene, noi raccogliamo e la ringraziamo di questa testimonianza anche di questo geologo che ha segnalato, proveremo a capire se è una persona contattabile. Faremo dire Erasmo D'Angelis, sono sicure le dighe? Beh, insomma, ieri c'è stata una riunione al Ministero delle Infrastrutture, dello stesso ministro Del Rio ha spiegato che appunto l'esempio del Vaillant è stato, se lo poteva risparmiare il Presidente della Commissione Grandi Rischi, è del tutto fuori luogo, in effetti è così, e c'è una vigilanza costante, continua, anche da parte del gestore, che è Enel, e quindi insomma sotto questo aspetto, insomma, Lei capisce, D'Angelis, che, lei capisce D'Angelis che lei capisce che per i giornalisti, per chi ascolta a casa, sentirle testualmente dire, e lo capisco per come è andata poi ieri la cosa, il presidente della commissione grandi rischi si poteva risparmiare parlare di Vaionte. No, quello che ci ha detto prima, concordo con quello che ha detto lei, come ci diceva prima, quello che ci hanno detto dopo. Però è corretto anche il presidente della commissione grandi rischi, cioè il presidente della commissione grandi rischi, prendiamo atto, è uno che parla a schiovere. Ecco, punto, non faccio altri commenti, ecco, cioè, niente, no, nel senso che Padellaro prima ci riferiva, adesso non vogliamo parlare sulla qualità, della qualità, però sulla qualità, non so, di alcune dichiarazioni quantomeno, nel senso, vabbè, comunque, Padellaro. Comunque insomma possiamo tranquillizzare D'Angelis che è sotto controllo e che quella è stata un'uscita infelice, come ha detto il ministro Del Rio sul rischio. Questo lo ha detto il ministro, certo. E questo lo ha ribadito anche il presidente della commissione grandi rischi. No, quando ha smentito l'allarme che lui stesso aveva infatti lanciato. Capisce che effettivamente sui giornali ieri è uscito rischio Vaionte e oggi non c'è nessun rischio Vaionte, che non è che i giornali si sono ammattiti, ecco, ha fatto il direttore di giornale anche lei. Non c'è dubbio, sono due messaggi radicalmente diversi, ci mancherebbe altro. Padellaro, su questo, per carità, l'eccezionalità e poi forse la qualità anche della comunicazione che è tutto, e tante volte... conta molto, ecco. Sì, anche i protagonismi, diciamolo, perché momenti nei quali tutti i riflettori mediatici del paese sono accesi sull'albergo, sul terremoto, allora ci sono anche i protagonismi, perché lo sappiamo, facciamo questo mestiere da tanto tempo, quindi un bel titolo per dire io l'ho detto, eccomi qua, ecco, non, fa piacere, diciamo, dispiace usare questi termini, ma insomma quello che ha detto Del Rio ieri sera è abbastanza sconcertante. Ma tornando un attimo a quello che diceva, credo, l'ex sindaco di Farindola, che ovviamente anche qui siamo tutti anche imbarazzati, non si può polemizzare con persone che stanno piangendo, persone amiche morte in quella tragedia, e non c'è nessuna responsabilità che noi possiamo attribuire all'ex sindaco. Però a me colpisce una sua frase: andiamo a vedere gli alberghi di Cortina di altre località, ma il problema non è questo, ogni albergo sarà stato costruito secondo quelle che erano, speriamo, no, le regole, le leggi, eccetera. Il problema è un altro, è che dire per 500 anni non è successo niente, ne sono sicuro che sia così, e poi vedere però che l'albergo... però lo vediamo noi dai giornali, dalle immagini televisive, è stato costruito proprio allo sbocco di quel canalone, di quel gigantesco canalone. Insomma, un dubbio lo fa venire, perché se dobbiamo difendere tutto e dobbiamo ogni volta dire c'è un esperto che dice il contrario, allora chiudiamo la pratica, rassegniamoci e speriamo in Dio o nella provvidenza o nella fortuna, ma io penso che l'informazione, qui vorrei tornare un attimo sulla storia dello sciacallaggio, no? Che abbiamo lo sciacallaggio ridicolo di quelli che vanno in televisione, insomma il caso Salvini è sotto gli occhi di tutti, e poi abbiamo invece un'informazione che le cose le deve dire e deve porsi delle domande, anche sapendo che purtroppo sono le stesse domande che sono state poste tante tante volte a cui non è stata data risposta. Sì, si spera che però non si i giornali a questo servono, e anche le trasmissioni che non si debbano poi riporre nell'immediato futuro, perché l'Italia è una storia di queste tragedie. Sembrava che si venerdì nell'arco della giornata, e si è visto, perché i giornali del giorno dopo, tranne due eccezioni, erano tutti ispirati all'orgoglio patriottico delle vite salvate per gli interventi che ha fatto Palazzo Chigi. Mi piglio la responsabilità di quello che dico, però detto questo, se la carta sismi è bloccata perché il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la blocca, cari amici del governo, è inutile che vi incazziate, perché il problema evidentemente è che non si muovono le leve. Se la carta valutazione rischio slavine e valanghe per il centro-sud non c'è e non è aggiornata dall'Appennino da 37 anni, idem, cioè sono tutte cose che si devono fare in tempi ordinari, se le riscopriamo poi quando succedono i problemi, è inutile che ve la prendiate con i giornalisti, perché io ho trovato squallido ricevere certe telefonate istituzionali venerdì scorso. Questa è la mia modestissima esperienza. Non mi va di fare polemiche, ho rifiutato di scrivere giornali editoriali per il giorno dopo su quotidiani nazionali, che naturalmente erano improntati alla richiesta: capisci, bisogna essere solidali. No, io, il mio mestiere non è essere solidale, il mio mestiere è fare analisi comparate di come vengono spese le unità di spesa pubblica e nel tempo che cosa cacchio impariamo. Mi pare che invece pensare che sia sciacallaggio sia il fatto che la politica continua a non capire. Continua a non capire. Allora c'è Roberto da Milano con cui concludiamo. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo soltanto capire, perché secondo me sono tutti discorsi validissimi, ci mancherebbe altro. L'unica cosa che mi chiedo, calati nel quotidiano, quanto possono essere poi realizzabili? Perché dire che comunque sia una struttura che si scopre sempre a posteriori poi essere costruita sui detriti di chissà quale valanga di quanti anni fa, vuol dire poi se uno in fase di conseguimento della licenza dovesse andare a dire no, qua tu non ci puoi stare, andare a prendere una famiglia, portargli via un'azienda senza nessuna restituzione, che magari è lì da anni, senza magari nessuna restituzione. Beh, in teoria se non si può costruire lì non bisognerebbe fermarla dall'inizio, insomma, non... Sì, però se la cosa risale a 100 anni fa, perché spesso poi in Italia ci sono edifici che hanno storie molto lunghe e che in periodi in cui magari certi accertamenti non si potevano fare, ma poi... Caro Roberto, ragioniamo sui se intanto, perché l'ex sindaco di Farindola ci ha detto che non era così, vedrà la procura. Però con questa ottica allora accettiamo il fatto di costruire le case nella zona rossa del Vesuvio sperando che non ci sia un'eruzione. No Oscar, cosa dobbiamo fare con questa ottica? Perché se no c'è il problema delle case, c'è il problema delle famiglie, ci sarà un problema di un albergo, gente che ci vive. Sì. O ce lo si pone questo problema o si fa finta di niente, non ce lo si pone. Già una volta sono stato equivocato quando parlo di un'eruzione, preferisco stare zitto. Ovviamente i politici locali sanno che tutte le strade del versante barra vesuviano non consentono alcun tipo di trasferimento d'emergenza delle popolazioni che lì vivono, però pare che non freghi niente a nessuno, quindi. Però Roberto ci poneva questo problema, col quale però ci fermiamo. Lo lasciamo così sospeso. E lo lasciamo così sospeso. Intanto in attesa della Corte Costituzionale che domani ci farà tornare a parlare della politica. Ringraziamo Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Bescapè in regia. Ci troviamo domani.